dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. E se avesse sbagliato? Devi fidarti dei tuoi compagni, in ogni caso, altrimenti tutto è perduto. Cari ascoltatori, venite qua da noi, venite qua a noi, perché sarà una serata un po' tesa, perché Balotelli ha segnato ma il Milan sta soltanto pareggiando. E aveva ragione il buon Galliani quando diceva... Cosa c'è Galliani? Quando diceva puntiamo ovviamente la Champions. Ah, ok. Cioè, non è che puntava molto alto. Cioè, no, perché sai che c'erano i milanisti che stasera belli caldi, perché c'era la possibilità di raggiungere l'Inter. Sì, ma sono veramente esaltati i milanisti, sono convinti che siccome c'è persino una come dire, una cam, come dire, la Balo cam, sì, no? di Sky, che è puntata su Balotelli, veramente questo possa cambiare le loro sorti. No, in questo caso l'Udinese ha subito ridimensionato per il momento. Che cattiveria. Cos'è? Che cattiveria. Ma chi? Che cattiveria? Ma Pinzi, c'è la festa di Balotelli. Cioè, prova a immaginare questo scenario: Balotelli che doveva essere in panchina, poi sì, a un certo punto perfetto. Cioè, Pazzini si fa male nel riscaldamento. Guarda. Balotelli entra 35 secondi e Balotelli prende il palo. Sì. Poi 20 Vabbè. Minuti e segna il gol. Sì. Cioè, perfetto. Poi arriva Pinzi e segna. Però non è successo nient'altro. Ecco. Ha dovuto rallentare l'azione. Vedi, ha tentato col tacco di portarsela via, cadendo proprio col piede opposto, ha lasciato lì una palla invitante. Stava per segnare, cose che succedono. Esatto, stava per segnare il secondo gol, invece l'Udinese, grazie a questo inciampo che c'è stato di Montolivo nella tre quarti del Milan, con un pallonetto stava segnando l'Udinese 2-1. Comunque siamo al 18esimo, 1-1 Milan Udinese. Sì, insomma, diciamo, questo Milan che per il momento non si può neanche dire vince, ma non convince, perché non vince. No, esatto. Quindi, però convince. Però veniva bella convince come frase, no? Come dire, da questo punto di vista. No, mi date un attimo un po' di risultati, date un po' di fantacalcio di questa giornata, insomma. Ma sì, guarda, c'è un... Tanto, scusa, chi ha segnato dell'Udinese? Dell'Udinese ha segnato Pinzi, l'uomo più ammonito della storia del calcio italiano. Sì, vabbè, adesso non fare subito, cioè, saranno cavoli suoi. È un dato oggettivo, assist di Muriel, però, perché gli ha messo lì la pallettina nel contropiede, quindi passaggio... E quindi stai ammiccando a tutti quelli che in qualche modo hanno a che fare col fantacalcio in questo modo, sì, perché in questo momento. C'è l'assist di Muriel. Nel frattempo è stato ammonito Lazzari, quindi se avete Lazzari a fantacalcio c'è qualche mezzo punto in meno grazie all'ammonizione di Lazzari. 19esimo Milan Udinese 1-1. Stavamo parlando di fantacalcio, perché Fiorentina-Parma ci sono stati gol di Toni con l'assist di Quadrado e Jovetic con l'assist di Migliaccio. Invece il Genoa l'ha spuntata per 3-2 sulla Lazio. Sono andati a segno per i genoani Borriello, Bertolacci e Rigoni, per la Lazio Floccari e Mauri su rigore. Quindi nessun assist, mentre Palermo-Atalanta 2-1 dell'Atalanta, Carmona e Denis con l'assist di Stendardo, il gol del Palermo di Nelson. Il Pescara 2 Bologna 3, per il Pescara Weiss su rigore e D'Agostino sempre su rigore, per il Bologna Diamanti, tanto per cambiare, su rigore, Gilardino che ha segnato di testa su una punizione di Diamanti, sì, e poi Conè. Ha segnato appunto Gilardino, no? Cioè, perché se mi hai Diamanti al fantacalcio? Sì, no, ho capito, vabbè, però voglio dire, adesso ha segnato di testa, cioè non è che nel fantacalcio poi... No? Il terzo gol del Bologna di Conè su assist di Morleo. Dobbiamo sbrigarci però, perché siamo un po' lenti. Siamo l'ultima partita, Siena-Inter 3-1 e Megara Sesto e Rosina su rigore, mentre Cassano ha segnato il gol dell'Inter, quindi 3-1 di Siena-Inter. Perché voglio accelerare? Stai correndo? No, sto correndo anche perché stiamo per parlare con qualcosa di importante. Vabbè, questa sera sì c'è il Milan, sì c'è Balotelli, sì c'è tutto questo, però nel mondo, cioè usciamo un po' fuori dai navigli, per quelli che sono a Milano e quelli che invece escono fuori da Roma, dall'anulare, insomma, ecco, diciamo questo, ecco, se si esce un po' da lì e si va a guardare un po' quello che accade nel mondo, sta per accadere qualcosa di importante, un evento sportivo che viene considerato sicuramente tra quelli più importanti, sicuramente è l'evento sportivo più visto, più mediaticamente coperto, più mediaticamente pronto alla bisogna, cioè quello del Super Bowl. Esatto, questa sera a mezzanotte ora italiana inizierà il Super Bowl fra i San Francisco 49ers e i Ravens, i Baltimore Ravens, e questa è la finale del campionato campionato di football americano, come abbiamo detto, Stati Uniti bloccati. E noi ne parliamo con Giorgio Tavecchio. Giorgio Tavecchio è un ragazzo italiano che si è trasferito negli Stati Uniti, ma ha la particolarità di essersi allenato questa stagione, di aver partecipato alla preparazione di San Francisco 49ers, di una delle due squadre che partecipano a questo Super Bowl. Viene a dire San Francisco. Esatto, di San Francisco. Non so come mai. Giorgio, pronto? Ciao, salve. Ciao, ci senti? Ci senti abbastanza bene? Tu dove sei in questo momento? Io adesso sono sul campo del mio liceo, qui accanto a casa mia, vicino a San Francisco, su per giù 20 minuti, 30 minuti di macchina da San Francisco. Ho capito, vabbè. Allora, nel campo del liceo sei? Sì, sto allenando un amico mio, quello che sta calciando, che gioca lo stesso ruolo che ho fatto io qui al liceo. Siamo qui sul campo a fare un allenamento prima della partita, sto pomeriggio. Ecco, devi cercare di spiegare, perché ovviamente gran parte degli italiani sono concentrati ancora sul Milan, ma noi vogliamo andare a toccare, vogliamo spiegare che cos'è il Super Bowl e soprattutto che cosa hai fatto tu. Perché siamo qui a intervistarti? Perché tu hai fatto qualcosa con il San Francisco. Che cosa di preciso? Ho fatto un ritiro questa scorsa estate con loro, ho fatto 4 mesi dai primi giorni di maggio fino a fine agosto in squadra con loro. Durante l'estate loro fanno ritiro, sono stato fortunato ad avere l'opportunità di essere in squadra, è stata un'esperienza bellissima proprio. Ecco, spieghiamo anche agli ascoltatori che non è che portava il ghiaccio, cioè, capito, no? Cioè, proprio giocava, cioè eri lì, no? Che ti allenavi con loro, giusto? Sì. C'avevi il casco, c'avevi proprio la la divisa, quelle cose lì, no? Che si vedono nei film. Sì. Mi sono sceso in campo 3 volte, che fanno praticamente 3 o 4 amichevoli durante il mese di agosto e ho disputato con la squadra, perché che per me era proprio un sogno, essendo di questa zona vicino a San Francisco. Tutti qui tifano sia per i 49ers che per i Raiders, e io diciamo che mi è sempre piaciuto un po' i 49ers. Poter scendere in campo con la divisa, col casco, con le attrezzature e tutto, è stato proprio un sogno, proprio di poter giocare per la squadra. Ecco, tu hai partecipato alla prima amichevole contro i Minnesota Vikings e sei partito titolare, sì. Giusto? La prima partita sono partito titolare, che di solito fanno così con le matricole, con i rookies, con quelli del primo anno, li fanno giocare verso l'inizio per vedere un po' come fanno, se giocano bene, se non vanno bene, anche per dare un po' di riposo, diciamo, ai veterani, che io ero in ritiro facendo competizione con il loro titolare dell'anno prima, che era fuori classe proprio, simpaticissimo. E allora, siccome lui era un po' più vecchio di me, diciamo. Cioè, un po' più vecchio. Tu quanti anni hai? Io sono 22, lui ce n'ha 37 quest'anno. Beh, lui ormai... Sì, però... Cioè, ma scusa... È strano che non sia così a casa, cioè, voglio dire, cosa fa? Scusa, cioè, ti fai da un anziano, per favore. 37 anni, deve stare a casa con il Played, a guardare le partite sul sofà. Ecco. Spero di sì, ma però per i kicker, più esperienza hai, più sei affidabile. E lui è uno dei più forti che abbia, secondo me, mai... giocato come kicker. Allora, anche se era un po' anziano, c'è comunque una gamba molto potente, calcia la palla a 70 metri con tranquillità. Purtroppo l'anno non è andato benissimo per lui, questa stagione ha fatto un po' di difficoltà, però durante il ritiro era fatto un fuori classe, era quasi perfetto. Ho capito. Tu quanto hai tirato la palla, scusa, Giorgio? Io? Il tuo massimo. O in allenamento? In allenamento, facciamo l'allenamento, viene bene, dai. Ok, quello più lungo mi sembra che ho fatto un allenamento con la squadra, erano da 58, quasi 60 yards, che saranno, non so, 55 metri, su per giù. Quelli dell'NFL hanno una gamba molto potente, riescono a calciare molto lontano. Infatti questo qui, di cui stavo parlando prima, quello il titolare dei 49ers, che si chiama David Eckel, la prima partita di quest'anno durante la stagione ha fatto un calcio da 63 yards, che saranno quasi 60 metri. Allora sì, la potenza ce l'ha, anche se ha 37 anni. Certo, che potenzina, tra l'altro, voglio infatti. Dire. Ecco. Ma sai come sono sti anziani, sono così, no? C'ha la potenza. Sono gente strana, non se ne vogliono mai andare. Nel frattempo stava quasi segnando il nuovo l'Udinese, però resta con noi, noi non abbiamo tanta pubblicità come il Super Bowl, però abbiamo la pubblicità anche qui, Radio 24. Dai e vai. Strade in diretta. Una buona serata, è scorrevole la circolazione su strade e autostrade. Ricordiamo che inizieranno domani nuovi lavori di lunga durata sul raccordo Sicignano-Potenza. Per i prossimi 5 mesi il transito sarà vietato ai mezzi pesanti a causa di lavori ad un viadotto tra Buccino e Balvano. Per chi viaggia in treno di conseguenza, anche gli autobus sostitutivi di Trenitalia tra Potenza, Salerno e Napoli effettueranno un percorso alternativo, accumulando ritardi. Non ci sono altri aggiornamenti, a più tardi. Dai e vai, non è solo calcio. Giorgio Ottavecchio ancora qui con noi, qui per raccontarci ancora il suo San Francisco contro Baltimora questa sera, Super Bowl. Parliamo allora del fatto che, Giorgio, come hai fatto ad arrivare lì? Cioè, non è che uno è passato al bar e ha detto: scusa Giorgio, non è che hai un po' di tempo libero, vieni un po' da me, no? Che ho bisogno, no. Cos'è successo? Come hai fatto ad arrivare lì? Ho fatto 4 anni giocando in squadra della mia università, la University of California at Berkeley. Ho fatto 4 anni lì, che è stato abbastanza bene, e si vede che i 49ers hanno fatto caso che io ero in zona, mi hanno fatto fare, diciamo, un provino durante la scorsa primavera, e ho cacciato abbastanza bene durante quel provino che mi hanno invitato a fare ritiro con loro. Allora è successo un po' così. Ma tu è quando che hai iniziato all'università a giocare a football, no? No, ho calciato per un paio d'anni al liceo, qui vicino a casa mia, ma a quell'età ero sempre molto più appassionato del calcio italiano, no? Sì. E sono ancora un tifosissimo dell'Inter, anche se quest'anno non è che stanno molto bene, però... No, di solito non va bene l'Inter, ma oggi è andata molto male, se la cosa ti può aiutare. Tu hai saputo, Giorgio, non sapevamo se tu sapessi, ma sai cosa è successo oggi, no? Tu sai com'è andata oggi l'Inter? Sì, hanno perso 3-1 col Siena, sì, in casa. Esatto, vedo che sei informato. Tu sai qual è la natura dell'Inter? Mi ha detto mio papà, sì, Tramaccioni. Aspetta però. No, tra l'altro abbiamo letto in un'intervista che tu hai detto testualmente: mi piace l'Inter giovane del giovane Stramaccioni. Complimenti. No, l'ho detto durante l'estate quando stavamo giocando abbastanza bene. Poi sì, era appena arrivato, volevo dargli un po' di spinta, diciamo, sì, no? Facevi un po' il tifo, cercare di dare un po' di animo, sì, insomma. Ma ecco, soprattutto, esatto, il fatto che tu abbia detto l'Inter giovane del giovane Stramaccioni è sostanzialmente una critica nei confronti dell'anziano Akers che ti prendeva il posto nei San Francisco 49ers. La leggiamo così? No, perché essendo un kicker, come ho detto prima, avere esperienza, anche se vuol dire avere un po' di età, è un buon segno, perché vuol dire che sei riuscito a rimanere in squadra per tanto tempo, e essendo anche un kicker non ci sono molte cose che puoi giudicare, basta che la palla entra, no? Sì. Allora diciamo che se sei più anziano sei un po' più affidabile, no? Perché sì, non vogliono le squadre non vogliono rischiare con un rookie, certo, che forse pensano che non riuscirà a calciare bene a livello professionista, anche se ha avuto una buona carriera a livello universitario. Ecco, senti Giorgio, ma qual è stata la cosa più bella che tu hai vissuto però in questo periodo che hai frequentato appunto il San Francisco? Che cosa è successo? Cos'è che ti ha colpito di più? Beh, secondo me la cosa che mi ha fatto più piacere era le amicizie che ho formato durante l'estate, no? Ero in squadra per 3-4 mesi e l'ambiente dello spogliatoio era molto sereno, molto unito, tutti si stavano bene insieme, si trattavano bene. Ho visto subito che c'era una buonissima atmosfera, sia competitiva ma anche da un punto di vista personale, no? La gente usciva a mangiare insieme, stavano bene. Io giocavo a carte, ho insegnato a 3-4 in squadra a giocare a scopa, no? Giocavo ogni giorno, certo. Ma facevi anche i gesti? Cioè i gesti segreti? I segni? I segni? Non è capace di giocare a Luca a scopa. No, perché giocavo solo uno contro uno. Poi, uno contro uno è tristissimo, giocare a scopo uno contro uno, te lo posso dire, Giorgio, voglio dire. Lo so. Senti una cosa, Giorgio, però a questo punto dobbiamo dare una parvenza tecnica anche un po' all'intervista che abbiamo dato, insomma, chi vince stasera? Anzi, stanotte? Secondo me, tifo per i 49ers, ma sono un po' preoccupato perché il percorso che ha portato i Ravens a questa partita fa sembrare che il destino è da parte loro, allora... Spero che vincono i 49ers, ma c'è qualcosa che mi dice che i Ravens forse riusciranno a fare qualche a combinare qualcosa un po' dal nulla, diciamo. Spiegaci questo percorso, perché secondo te è un percorso strano? Perché hanno vinto, hanno perso le ultime 5 o 6 durante la stagione, poi erano praticamente eliminati durante la prima partita dei play, no, la seconda partita dei playoffs, c'erano tipo 30 o anche forse meno secondi rimasti in partita, erano in vantaggio contro, mi sembra, Denver, fuori casa a Denver, e sono riusciti a fare due o tre lanci lunghissimi per entrare e fare il calcio dal loro kick per vincere la partita, che di solito, cioè, è molto raro che succede così, di solito. Quindi casuale, tu dici, un po' casuale, diciamo, una cosa un po' fortunata. Diciamo che gli sta andando tutto, sì, bene. Un po' fortunata, forse. Sì. E quindi c'è la possibilità che gli vada tutto bene anche in finale, giusto? Senti una cosa, c'è un giocatore dei 49ers, Ray Lewis, che in questa settimana o in questi giorni ha avuto un articolo di Sport Illustrated in cui è stato accusato di doping. Tu probabilmente ti sei allenato con lui. Che tipo di valutazione dai a questa notizia data da Sport Illustrated? A dire la verità, lui gioca per i Ravens, allora non non c'è giocato in squadra. No, scusa, lui. È vero. Non vi preoccupate. Beh, non lo so, lui diciamo che è una persona di alta controversia, non so se ci dice in italiano, però comunque ci sono quelli che lo amano e quelli che lo odiano. E so che nel mondo dello sport qui ci sono sempre certa gente che cerca di trovare qualcosa di brutto degli avversari, e non lo so, lui nega tutto, allora non sono ben informato di questo, ma senti Giorgio, ci racconti però che cos'è dal punto di vista proprio ormai di costume, dal punto di vista sociale, che cos'è il Super Bowl, perché diventa un evento talmente come dire, vissuto, no? dalla gente, dalle persone, che praticamente qualcuno dice anche sarebbe utile anche far non andare al lavoro lunedì, perché tra l'altro la gente fa talmente tanta festa, e in questo momento c'è una traversa clamorosa, una cannonata, non ho ben capito da chi, però è Nyang, mi pare, qualcosa del genere, del Milan, però mi dispiace Giorgio, così succede. Detto questo, no, perché ovviamente tutti sanno che cosa succede dal punto di vista mediatico, no? Cioè in televisione quanta gente, miliardi di persone che vedranno il tutto, ma però la persona si ritrovano, è un modo per ritrovarsi, si socializzare moltissimo. Esatto, sì, è tipo una cerimonia, una festa, una tradizione di andare a mangiare a casa di un amico, lo sai, qui fanno tutti i barbecue, no? la carne, fanno il jelly, fanno i nachos, no? c'è tutta una cultura in giro attorno a guardare la partita, ed è proprio un aspetto sociale, che va a casa della gente, va a casa degli amici, e guardi sempre in compagnia, allora diventa un po' uno spettacolo, perché è una scusa di andare a festeggiare, a mangiare insieme. Cioè, quindi è un modo per trovarsi, insomma, per socializzare. Esatto. Non tanto con la famiglia quanto con gli amici, però, mi pare. Entrambi. Ecco, senti, in occasione delle vittorie, cos'è che succede? Nel senso che in Italia quando si vince lo scudetto o i campionati mondiali di calcio, la gente scende per strada, si inizia a suonare i clacson, lì succede qualcosa di simile oppure un festeggiamento più intimo? No, è la stessa cosa, di solito la squadra che vince fanno tipo una parata in casa loro, in città, e c'è sempre una grandissima festa. Per esempio i San Francisco Giants, la squadra di San Francisco di baseball, hanno vinto praticamente la stessa roba, la World Series, che sono come i playoff di football, e hanno vinto e hanno fatto una parata tremenda in centro città, e poi è diventata tipo una festa della città, la gente la usa come scusa per uscire a mangiare, a festeggiare, a gozzovigliare, no? A gozzovigliare, cioè, si dice proprio gozzovigliare, sì. Senti, al di là dei quarterback, facci il nome del giocatore che potrebbe essere quello decisivo stanotte. Io spero David Akers, il kicker dei 49ers, perché spero che lui abbia l'opportunità di fare il calcio vincente con 2 secondi rimasti in partita, così può avere tipo una rivincita, perché quest'anno purtroppo ha avuto un po' di difficoltà, e spero proprio che riesca a vincere la partita per i 49ers stasera. Allora io spero David Akers. Sì, e così poi cioè una volta che ha vinto si ritira e entri tu in campo, della verità. Beh, un po' sì, ma comunque io lui è un tipo di altissimo carattere, mi ha trattato benissimo. Spero il meglio per lui proprio. Senti Giorgio, ora noi aspettiamo ovviamente la tua entrata in campo prima o poi. Grazie, grazie per averci fatto farci fare bella figura questa sera con gli amici. Quando andremo a vedere il Super Bowl avremo un sacco di cose da raccontare a questi qui che non sanno nulla. In questo caso noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ti auguriamo tante belle cose. A presto, grazie, Giorgio. A presto, grazie, tanti saluti. Ciao ciao, grazie anche a te. Era Giorgio Tavecchio che ha fatto il camp di preparazione con San Francisco 49ers, poi dobbiamo dirlo, lui è stato tagliato, nel senso che non è rimasto in squadra. Dillo così. No, vabbè, perché bisogna dirle, se, cioè, no, è la dura verità. È brutto dirlo in questo modo, dai, 800-24-0024, 800-24-0024, velocissimi, soltanto per dirci se voi vi state attrezzando per il Super Bowl, e come vi state attrezzando, certo, se poi ci telefonate per dire, sì, no, ho preso un po' di patatine, o c'è un po' di maionese, ho preso il popcorn, no? 800-24-0024 Super Bowl, parlatene adesso, ora, in questo momento. Ciao, pronto Enrico? Sì. Come ti organizzi stasera? Ma prima di tutto è un grande evento, il Super Bowl, a parte che l'NFL è uno sport fantastico. Sì, anche l'America è una grande nazione, vabbè, poi dopo vediamo, andiamo sì, direttamente. Cosa fai stasera proprio? Ma niente, stasera si vede ovviamente la partita in compagnia con un paio di amici, nessuno di noi tiene né San Francisco né Baltimore, perché uno tiene Green Bay, uno tiene New England. E come mai? E uno tiene San Diego, ma l'evento è l'evento. No, cioè, ma come mai tenete per quelle squadre? Non ho capito. Beh, New England. Come mettete per le squadre, staremo qui un bel po' a dare le ragioni, però ci sono vari motivi. Chi ad esempio a San Diego è legato alla città, chi tiene i Patriots è legato a Boston e così via, insomma. No, cioè, certo. Indipendentemente dal fatto che tifi per una squadra o l'altra, il Super Bowl è un po' un evento. Sì, vabbè, comunque è un modo anche per trovarsi, no? Sì, dovrebbe essere una partita equilibrata. San Francisco sembra un pelo più forte, Baltimore in effetti arriva è molto più fortunata. Esatto. C'ha la serie che gli è andata bene, quindi c'ha la botta di culo, non so se sono troppo tecnico in questo, però secondo me c'ha la botta di culo, non so come mai. Ma diciamo che Baltimore arriva al Super Bowl di sicuro con merito, però come giustamente è stato detto poc'anzi, arriva con una vittoria un po' tirata per i capelli a Denver. È una vittoria Foxborough contro i Patriots forse inaspettata. Ma tu mastichi proprio, quello che si dice in termini tecnico, tu mastichi quindi di football americano, sì, perché? Ci sono tanti tifosi in Italia che amano il football e questi sono molto preparati, cioè ad esempio molti italiani vanno anche a Londra sì, quando viene giocata la International Series, che è la partita che l'NFL porta in Inghilterra. Quest'anno c'era New England contro St. Louis, l'anno prossimo faranno due game, speriamo, chissà mai. Dall'Italia vanno in molti, sì, questo l'avevamo già appurato questo fatto, però voglio dire, ma tu perché ti sei appassionato del football americano, così? Ma diciamo che io mi sono appassionato quando a inizio anni 80... Hai visto quella sporca studente. Ultima meta, di la verità, hai visto il film? No. Invece quando arrivò nei primissimi anni 80 fecero un Super Bowl, mi pare che giocavano i Raiders contro gli Eagles, Philadelphia, Oakland, e ci fu un successo veramente inaspettato di pubblico e molti ragazzotti di quella generazione, tutti studenti, cominciavano a appassionarsi e se la sono trascinata. Grazie Enrico, una buona serata e buon Super Bowl, grazie. Ok, anche a voi, ciao. Ecco, allora diciamo che intanto 800-24-0024 per darci altri appuntamenti, in questo caso ricordiamo che poi noi abbiamo un appuntamento già direttamente con un gruppo di Torino in un pub dove si ritrovano, dove ci sono già ritrovati oggi per guardare la partita, e ha portato bene all'Italia il loro raduno all'interno del pub a Torino, però sarebbe interessante anche riuscire a trovare altre situazioni, non necessariamente pubbliche ma anche private. Nel frattempo andiamo con la pubblicità. Dai e vai. Oggetti smarriti, buongiorno Dica. Buongiorno, ho perso metà borsa, metà occhiali e metà bicicletta. E ora riattacco perché la sto chiamando con metà telefono e se mi risponde non la sento. Domani potresti perdere metà di quello che hai. Non rischiare. Fai un check-up previdenziale e conserva per intero la qualità della tua vita futura. Pianifica la tua pensione con la competenza del gruppo Deutsche Bank. Rivolgiti agli sportelli Deutsche Bank o ai promotori finanziari di Finanza e Futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni contrattuali su gruppodb.com. Dai e vai. Non è solo calcio. Non è solo calcio, però dobbiamo dire che il Milan è stato vicinissimo ad un altro gol, giusto? Sì, ci sta provando in ogni modo con Balotelli, una punizione dal limite, proprio a girare sul secondo palo. Padelli si è allungato con le due mani nella messa in calcio d'angolo. Tirato, dopodiché... Non vedeva proprio il pallone. Non ho capito, chi è che ha tirato, scusa? Balotelli. Il palo? Esatto. Ancora vicino al gol il Balotelli. Esatto, Balotelli era proprio la palla a fil di palo, stava entrando e Padelli, che non l'ha vista partire perché c'erano tre giocatori del Milan in barriera a togliergli la visuale, riuscita a distendersi e a mandarla in calcio d'angolo. Mi sembra 42. Che andrà delegato un po' tutto al Balotelli, cioè, se ho ben capito. Diciamo, punto. È il Milan di Ibra questo, cioè il Milan in cui c'era un riferimento che era Ibra, in questo caso è diventato Balotelli. Intanto Dusan Basta sulla destra e mette la palla alta all'esterno della rete, un tiro al 42esimo. Siamo al 42esimo, Milan 1, Udinese 1. Claudio, pronto? Pronto. Allora, innanzitutto volevo dire che è un grande onore essere finalmente al telefono con voi, perché vi seguo da non so neanche quanti anni, da Qatar Sport. Disintossicati, dai, fai qualcosa. L'analista pur dirà qualcosa, cioè, sì, non infatti, è che puoi andare avanti così. Di smettere però per ora, sì, vabbè, riesco ancora a seguirmi. Vabbè, comunque se sei contento tu, voglio dire. Senti, allora dici tutto. Io sono grande appassionato di football, ho anche giocato Dai, dove? A Parma? A Parma, sì. Ah. Nome squadra? Per i Panthers. I Panthers di Parma. Panthers, Beh. Niente, ogni nome una garanzia, i Panthers. Com'è? No, dico un nome e una garanzia. Cioè, Sì, ha anche fatto un libro John Grisham sulla squadra. Ma chi è che non l'ha letto il libro di John Grisham? No. L'abbiamo letto tutti. Beh, tu non l'hai letto. No, l'abbiamo letto tutti il libro. A parte Luca Gattuso che non l'ha letto, ed è l'unico, penso, al mondo ormai. L'ha letto tutti. Aveva fatto un scalpore Grisham che parlava di questo. Vabbè, lasciamo stare, parliamo di cose serie. Allora, Claudio, stasera come tu vivrai questo Super Bowl? Mi trovo sempre con un mio amico a vederlo in diretta. Di solito c'è sempre qualche altro amico che bene o male ci raggiunge. Invece stavolta siamo solo io e lui e niente, birra, patatine e guardiamo la partita. Birra, patatine? Ho capito, vabbè, a me non potevate anche portarvi un pollo arrosto già fatto, insomma. Ma abbiamo già mangiato le lasagne a cena, adesso insomma non esageriamo. Ah no, non aspettate quindi per mangiare, sul tardi. No, niente. Ho una domanda tecnica per Claudio, visto che ha giocato. Birra patatine, rutto libero o rutto dichiarato? Rutto libero. Cioè, in due. Scusa, cioè. No, ma c'è la moglie. Ma chi è che gli può dire qualche cosa? Scusa, per in due. Tradizioni fantoziane a tradizioni statunitensi. Esatto. No, tutti quanti siamo molto più legati a quelle fantoziane. Senti, pronostico? Anche tu, pronostico? Pronostico, spero 49ers, spero anch'io come Giorgio Vecchio, dico che insomma c'è qualcosa che mi porta a dire che i Ravens sono un po', diciamo, hanno il destino dalla loro parte. Quindi. Scusa Claudio, ho detto fra di noi, tu che hai giocato, io che mastico di football americano, voglio dire, cioè Matavecchio 22 anni ha giocato, si è allenato con loro, cioè, capito? Lo so. No, dico, no, voglio dire, no, è una, cioè, lui ha curriculum, mette 49ers, tu metti Panthers, capisci? È un po' così, come dai. Vabbè, no, però sì, è stato veramente un'esperienza fantastica. Immagino, mi video molto. Certo. Non sei solo. Vabbè, ciao Claudio, tante belle cose, mi raccomando, vai dal dottore. Ciao, okay, pronto. Bene, Alessandro, sei tu? Pronto, sei tu. Ciao Alessandro. Intanto scusa, permettimi, 800-24-00-24 per quelli che hanno ancora intenzione di assistere al Super Bowl. Come affronteranno questo Super Bowl? Tu hai preso patatine? Ma noi in realtà ci siamo spinti un po' oltre. Nel senso, da 10 anni facciamo salame fritto e pasta al ragù. Scusa, salame fritto? Sì, salame fritto, prendi il salame che appena appena tiene la fetta E lo friggi. e lo freggi. Ma già, l'avevo intuito. Normalmente lo si fregge nel vino, cioè si fregge, sì, si fregge, in realtà si cuoce nel vino bianco, sì, senza panatura. Noi invece usiamo la birra, quindi andiamo un po'. Scusa Alessandro, questa qua mi terrorizza un po' come ricetta. Cioè il salame normale, quello che normalmente si prende per affettare, quello buono, no? Sì, però tu normalmente mangi il salame stagionato. Sì. Invece tu prendi il cacciatorino salame, fresco? No, il cacciatorino, un bel salame gentile, il bel salame di felino. Sì, e lo metti lì fresco, fresco di quasi un paio di settimane, che giusto giusto tiene la fetta, sì, magari fatto in casa. Tagli le fette un po' più spesse del normale. Cioè immagino, perché se no si scaldare, fai scaldare il liquido, che sia vino, che sia birra. Quando ha raggiunto la giusta temperatura, metti dentro le fette, che ovviamente si cuociono, prendendo anche il gusto del liquido in cui le friggi, che può essere vino o birra. Ho capito. E poi te lo mangi guardando il vino, guardando ovviamente il super. Direi che è abbastanza una cosa abbastanza imbarazzante. Allora, cioè, salame fritto e poi birra, insomma, a questo punto. Birra e pasta ragù. Ecco, Alessandro, gli esami del sangue sono previsti martedì o mercoledì per capire i trigliceridi, a che punto sono arrivati? Ma guarda, in realtà gli esami del sangue, qua siamo un po' tutti donatori di sangue e devo dire che, anzi, siamo quasi tutti promossi. Negli ultimi miei esami non c'era sbagliata anche la data. Sì, perché quello che ha fatto l'esame è con voi lì a mangiare il salame fritto, e questo è il problema. Sì, c'è un insider training abbastanza. Esatto, ma quanti siete stasera? Ma l'anno scorso eravamo 20-25. Ah, voi ci siete in tanti. Sì, vabbè, siamo in una birreria, quindi sai. Attenzione, perché si parla di un rigore adesso direttamente per il Milan. Sciarauri ha atterrato e ovviamente l'Udinese è un po' in bella incazzata e sta facendo tutto quello che deve fare. C'è qualcuno che ha alzato persino le mani addosso all'arbitro. Sì, vabbè, sta succedendo di tutto. Devi capire, Sergio, che siamo 47 minuti 11 secondi con 3 minuti di recupero. Mancava un minuto alla fine. Che c'è vergogna. Stato Balotelli che ha allungato la palla sulla fascia sinistra, appena entrato in area, è entrato in scivolata, però l'ha toccato. Secondo me non c'è. Ha toccato la palla il difensore. Guarda, adesso vediamo un attimo. Secondo me ha preso la palla. Nettamente esatto, la palla. Ertò ha preso la palla. Intanto c'è Guidolin che si sta agitando come poche persone. E dice persone. No, non è rigore, comunque ve lo diremo. Allora Alessandro, siete in 25 anche stasera, ma dove siete, scusa? Meno, sì. Ma dove siete a mangiare? Noi siamo a Soragna in provincia di Parma, dove c'è una birreria che è la mia, che gestisco con mia moglie. Tutti gli anni, da 10 anni ormai, guardiamo il Super Bowl mangiando appunto il menù che ti ho detto prima. Però cioè, nel senso, non è una cosa molto molto conviviale fra amici. Certo, il Super Bowl era una scusa per far casino, sai, diciamo. Assolutamente. Però anche, tra l'altro, poi oggi viene benissimo perché dopo la partita dell'Italia. Certo. Siamo tutti ulteriormente. Ce ne può fregare di meno del fatto che è Balotelli che tira il rigore, del Milan? Ma, guarda, sinceramente io sono di Milano, abito a Parma e tifo Roma, quindi perfetto. Lei tutte proprio, ti mangi salame fritto. Esattamente. Vabbè, senti, ti ringrazio, grazie Alessandro. Buona serata, grazie. Da Alessandro di Parma, in attesa del rigore di Balotelli che sta per arrivare orora. Tutte le cose tira alto. Che abbiamo a disposizione. La butta dentro a manetta. Tira una spingardata che buca la rete. Balotelli non ha mai sbagliato. Eccola qua, gol. È già doppietta, è già balomania, diciamolo chiaramente, balomania. E vabbè, sono cose che succedono. Scusa? No, tra l'altro c'è stata una piccola discussione con Robinho su chi dovesse tirare il rigore, perché sì, poi dopodiché gli arriva l'ascella Robinho e quindi esatto. Di fatto, ecco, torniamo però Alessandro, Luca. Pronto? Ciao, ecco. Scusaci, ti abbiamo fatto attendere, ma sai, Balotelli è così, quando deve tirare il rigore tira, Vabbè. Pronto? Alessandro Luca è il titolare del Newcastle Pub di Torino, dove questa sera si riunisce un po' di gente di Torino a seguire questo Super Bowl, giusto? Sì, non sono il titolare, sono l'organizzatore. Ah, l'organizzatore. Vabbè, non devi offenderti, non volevamo offenderti in questo caso. No, non sono offeso, magari. No, lo fa per l'ufficio e per il fisco, perché sennò poi chiedono a lui. Scusa, esatto. Posso dire un attimo, dobbiamo fare anche un po' di radiocronaca in questo momento, ogni tanto qua succede, cioè che in questo momento c'è Di Natale che se la sta prendendo con l'arbitro, proprio in questo momento, e quindi rischia anche lui un paio di giornate di squalifica. Guarda, Di Natale Pinzi, Muriel, che sono tutti attorno all'arbitro, mentre Balotelli saltella. Balotelli saltella, è l'unica volta che lo vedo un po' saltellare con allegria, direi, in questo caso. Esatto, nel frattempo vigili della polizia locale di Milano che stanno accompagnando l'arbitro. Esatto, stanno tenendo lontani i giocatori dell'Udinese. Balotelli con gli altri giocatori del Milan va sotto la curva del Milan a festeggiare. Ecco qua. Allora Alessandro, allora che sta succedendo lì a Torino? Beh, di certo non nel football non succede quello che state dicendo voi poc'anzi. Certo. I giocatori raramente se la prendono con gli arbitri, anzi praticamente quasi mai. Sì, anche perché poi diventa un po' un problema quelli un investimento mica da ridere, cioè quelli lì che voglio dire. Sono molto grossi, se gli arbitri. Sì, la vedo durissima anche da quel punto di vista. Ma non è nella mentalità di questo sport. No. E quindi? Noi stanno preparando tonnellate di hamburger, alette di pollo, cibo stile Tex-Mex e quant'altro. Hanno fatto una discreta scorta di fusti di birra perché... Quindi un po' all'americana sotto, cioè cercate di... Sì, molto all'americana. Sì, cioè magari un po' più... cioè proprio roba pesante anche da mangiare stasera. Sì, molto. Anche perché l'anno scorso abbiamo fatto lo stesso party e alle 4 di mattina il cuoco del pub era ancora lì che sfornava panini e quant'altro, per cui... sarà insomma da lavorare per loro e da divertirci per noi che ci guardiamo la partita. Si prevede quanto che flusso per vedere questa partita? Ma abbiamo una cinquantina di prenotati, da quello che so, ma penso più di 100 persone, perché ci sarà quasi in blocco una delle squadre di Torino, i Jaguari Torino, e molti altri giocatori e appassionati. Scusa, Torino ha una squadra di football americano? Sì, una delle più antiche d'Italia. Quindi è nata nell'85, immagino. Vuoi sentire Balotelli? No, è nata nel 79. Aspetta, vuoi sentire cosa dice Balotelli? La sua prima intervista, perché veramente è il giocatore del match. No, dovevo essere in panchina, dovevo giocare a pazzo, però lui ha avuto un problema e quindi sono entrato. Sinceramente ero pronto già da prima a essere pronto per giocare, appunto entrare per la partita, però pensavo di giocare la partita in corso. Però ho giocato dall'inizio, meglio così, è andata bene e sono contento, anche se la partita è stata molto difficile, sinceramente. Perché è stata una buonissima Udinese, poi ho trovato un grande Padelli che sembrava ce l'avesse con te. Però devo dire, Padelli, il portiere. No, non c'aveva niente con me. No, nel senso che fa... non riesce mica a capire le battute. No, ma tra l'altro... Così, è più forte di lui. No, ma la faccia che ha fatto quando sì. Hanno detto Padelli, chi? Il portiere avversario. Ha fatto chi? Quell'aria un po' crucciata perché ha detto Padelli ce l'aveva con te. A quel punto lui si è subito inalberato. Però torniamo a Torino. In questo caso a Torino che cosa... Quindi inizierete tra poco, diciamo tra un'oretta, arriveranno? Sì, più o meno, sì, esatto. Ho capito. Voi da quanti anni state facendo questo appuntamento per il Super Bowl? Ma in questo pub è il secondo anno. Io organizzo da parecchi anni queste feste, perché sono un ex giocatore, allenatore, appassionato di football. Sono stato anche un vostro collega a livello radiofonico con una trasmissione sul football americano, per cui è una passione che ho da quando ero piccolo. Su che radio? Su una piccola radio web locale. Quindi da poco, insomma, ho capito, va bene. Senti Alessandro, allora dacci il tuo risultato, soprattutto in questo caso, chi è che vincerà? Ma io do favoriti Baltimore, i Ravens, non perché sono arrivati al Super Bowl per fortuna, come dicevate prima, ma perché ci hanno messo più impegno. Parlando da favoriti, hanno questa carica in più rispetto, secondo me, ai San Francisco 49ers, sono comunque guidati da un giocatore, in particolare un difensore, Ray Lewis, che giocherà la sua ultima partita, poi si ritira, 16 anni di carriera e vuole chiuderla con un altro anello. Quindi hanno una carica motivazionale in più rispetto ai 49ers, forse. Ma come parli bene, guarda, potresti fare il suo ufficio stampa. Senti, ti ringraziamo Alessandro, stacci molto bene. Grazie a voi. Auguri a voi e a tutti quanti, grande festa. Grazie ciao. Mille. Ciao, grazie. 824-0024, se proprio state organizzando, visto che ormai il Milan ha vinto, tranquilli, siamo tranquilli, due gol di Balotelli e allora. Sto prendendo Lucarelli, no, tu pensa che no, c'è cioè, confusione ormai nell'aria. Il secondo su rigore, ricordiamolo, al 47esimo. Sì, che si poteva, secondo me si poteva anche evitare, sì, era infatti. Proprio un rigorino di quelli chiari. Sai le polemiche adesso. Però adesso c'è sudditanza Balo, a questo punto, esatto. In questo passaggio. passaggio, e quindi si penserà, si andrà avanti per un bel po' su questo effetto Balotelli. Ma abbiamo detto che il Burkina Faso ha vinto 1-0 con il Togo? Sì, quindi si è qualificato per le semifinali. Io spero di sì, perché no, è una notizia che non vorrei aver bucato, tra le altre cose. L'abbiamo detto adesso, guarda, okay. L'ho sentito adesso su Radio 24, il Burkina Faso ha vinto 1-0 con il Togo e si è qualificato. Gol di Pitroipa. Quindi allora chi è che si è qualificato alla fine della fine? Burkina Faso è? Mali, Nigeria e Burkina Faso, Ghana saranno le semifinali. Hai visto? Quindi Costa d'Avorio eliminata, che doveva essere invece quella appunto, esatto, più quotata, accreditata. Insomma, accreditata alla vittoria. Traffico ancora una volta qui Radio 24, dai vai. Dai e vai. Strade in diretta. Aggiornamenti dalle strade, circolazione scarsa su strade e autostrade, con la pioggia e il vento forte che interessano sempre i percorsi del sud Italia, anche nevicata in atto tra Basilicata e Calabria. A chi è in viaggio sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo che resta chiusa l'entrata dello svincolo di Villa Marzana in entrambe le direzioni a causa di allagamenti. Ed è tutto, vi auguriamo buon viaggio. Dai e vai, non è solo calcio. Vamos dançar. A gente começa assim, né? Vamos ver. Você gosta de cantar? Ai, que maravilha. Você é de onde? Do Rio? Ah, eu sou da Bahia. É. Mas que coisa, né? Uma baiana e um carioca se encontrando aqui em Paris. Nesse local aqui, vem, vem, sim. Ah, você tá passando as férias? Eu também. Como é o seu nome? Hã? Ah, lindo nome. Seu nome é Roberto. Ai, todo mundo te chama de Bob. Ah, eu tenho um amigo que também se chama Bob. Io direi di darci una pausa di riflessione, cioè una pausa di riflessione, perché guarda, oggi c'è stata troppa emozione, c'è stata troppa emozione in giro, abbiamo vinto contro la Francia, adesso tra un poco arriverà il Super Bowl, poi dopodiché l'Italia ha vinto contro la Croazia in Coppa Davis, è passato il turno, tra le altre il cose, il Burkina Faso che mi batte il Togo e passa in semifinale in Coppa d'Africa, c'è un po' la Costa d'Avorio che è stata eliminata dalla Nigeria 2-1, certo, voglio dire, diciamolo che in questo caso noi andiamo a fare una riflessione su tutto quello che sta accadendo anche nel mondo del calcio, ma non soltanto nel mondo del calcio, perché Balotelli è tornato, quindi andiamo un po' in là, e siccome la nostra trasmissione dice non è solo calcio, andiamo a parlare d'altro, andiamo a parlare di tiro con l'arco. E abbiamo adesso tiro con l'arco, c'è il Super Bowl, scusa, no, tiro con l'arco, perché non basta fare festa, ancora l'avevo fatta già io quella, c'è il Super Bowl? Sì, ho capito, ma non basta far festa soltanto alle Olimpiadi, hai capito, quando poi si vince col tiro con l'arco, così no? Mi piace, così mi piace. Piace? Sì, sì. No, carica, bisogna andare a seguire bene tutto quello che sta accadendo un po' ovunque sul tiro con l'arco. E che cosa sta accadendo nel tiro con l'arco in questo momento? Luca, cosa sta accadendo nel tiro con l'arco? Ci sono stati campionati italiani indoor di tiro con l'arco. Esatto. C'è un po' di fuochi artificiali. Esatto. Cioè, ecco. In questo fine settimana ci sono stati campionati italiani indoor di tiro con l'arco. Rapatapim, patapum. No, guarda che quello è su quelli che sparano. Allora, che scusa, questa è un'altra cosa. Campionati fanno pss, vabbè. Pss. E quindi abbiamo al telefono Mauro Nespoli che è atleta in forza al centro sportivo dell'aeronautica militare, quindi diciamo tira con l'arco per l'aeronautica militare, ma è anche studente in scienze motorie all'università di Pavia, vincitore, esatto. dillo bene adesso lo diciamo perché mettiamo il palmarès di Mauro Nespoli, ricordiamo ancora quei momenti in cui lui era lì nel campo di tiro a Londra con i suoi compagni di squadra e vinceva la medaglia d'oro per l'Italia nel tiro con l'arco a squadre maschile alle Olimpiadi di Londra 2012. Secondo me Mauro si è addormentato con questa presentazione. Mauro, sei ancora lì? Ti stai facendo una pennica? Pronto, Mauro? Ciao, stavi già dormendo? Sono qui. No, assolutamente, vi stavo aspettando. Ti ho svegliato, ti abbiamo svegliato con questa presentazione. Mica è colpa mia, è stata una presentazione divertente. Sì, ecco, meno male, se no ti abbioccavi. Delle 10 presentazioni radiofoniche e televisive, come la classifichiamo? Non classificate. No, nella migliore sicuramente. Cioè, grande Mauro, tu sì che sai fare comunicazione. E sei il nostro arciere preferito, tra l'altro sei il nostro arciere preferito, lo stesso te l'abbiamo mai detto in questo caso. A noi ad esempio Galliazzo non ci piace. Galliazzo non ci piace. Solo Mauro Nespoli. Assolutamente. Mauro, allora vediamo un attimo di parlare di cose importanti in questo caso. Cosa stai facendo tu in questo momento mentre stanno accadendo altre cose nel mondo? Io sono rientrato oggi pomeriggio dai campionati italiani, come dicevate poco fa, che potevano andare decisamente meglio, esatto. Potevano andare anche qualcosina peggio, quindi alla fine vediamo comunque il bicchiere mezzo pieno. Potevano andare anche un po' così, però. Esatto. No, Mauro, noi abbiamo visto l'elenco dei vincitori, fra i campioni italiani non c'era il tuo nome. Scusa, chi è che ha vinto? Inspiegabilmente. Ecco, chi è che ha vinto? Dicelo tu, Mauro. Ha vinto Luca Maran, un ragazzo giovanissimo della classe juniores, battendo appunto in finale Marco Gagliazzo in una finale combattuta. Mauro, guarda, tu sei il nostro preferito, ma Maran è sicuramente quello più simpatico. Posso darti questa notizia? È una gara di ruffianeria, ho capito. Esatto. Quindi vabbè, insomma, è andato un po' così, tu dici, Mauro, come mai? Sì, è andato un po' così, ma sicuramente periodo post-olimpico non è semplicissimo, riprendere non è semplice, io mi sto anche dedicando agli studi, ho ripreso l'università in scienze motorie a Pavia, quindi non è semplicissimo conciliare studio e attività professionale, attività arcieristica, però cerchiamo di portare avanti tutte e due nel migliore dei modi. Ecco, tra l'altro, Mauro, proprio di questo argomento vogliamo parlare con te, perché tu sei in Italia, fai lo studente all'Università di Pavia, un tuo collega, nel senso che ha vinto la medaglia d'oro anche lui alle Olimpiadi di Londra 2012, Nicolò Campriani, ha detto che in Italia non è possibile coniugare studio e sport, e quindi a te chiediamo questo... Beh, sentendo parlare Balutelli, questo si capisce molto. No, sicuramente non è semplice, poi dipende ovviamente da dove uno ha la fortuna di studiare, dall'indirizzo scelto. Io qui a Pavia ho trovato anche nella struttura del CUS le condizioni migliori per poter praticare e studiare allo tempo stesso. Perché tu tanto diciamo che cosa studi, no? Perché sennò... Io sono iscritto al terzo anno di scienze motorie e all'Università Pompeo di Pavia, l'indirizzo medico di scienze motorie. Ecco, Campriani ha detto: in Italia ho a che fare con professori poco disponibili che magari dopo aver sostenuto lo scritto, se mi trovano a dover dare l'orale in coincidenza delle gare di Coppa del Mondo, mi rimandano alla sessione successiva. Succede anche a te quando dici che sei un atleta, devi fare le gare e magari hai bisogno di spostare una sessione? No, diciamo che da questo punto di vista, rimanendo ovviamente io in un corso di laurea ad ambito sportivo, sono un pochino più agevolato. Sicuramente fare entrambe le attività a tempo pieno non è possibile, quindi si cerca comunque di venirsi incontro in qualche maniera, noi nei confronti degli insegnanti e gli insegnanti nei confronti miei. Tu a che squadra tieni di calcio? Io sono interista. Perché ridi? Dovresti essere orgoglio. Guarda, io non so dove sei collocato nel campionato italiano, però vai meglio dell'Inter in qualsiasi caso. Beh, diciamo che oggi non è stata una gran giornata, ma noi interisti siamo abituati, ecco, a questo, quindi siamo abituati a grandi partite, a grandi dolori, quindi ormai ci abbiamo il callo. Senti, quando vedi Gagliazzo salutacelo, perché cioè, tutto sarà sommato... Fatto, oh. Qual è il tuo prossimo appuntamento adesso agonistico in questo caso? Il mio primo appuntamento sarà la prima fase di Coppa del Mondo a maggio. Uh-huh. A maggio? A maggio, sì. Ci saranno però prima, e ovviamente non parteciperò io, ma parteciperanno altri ragazzi, la formazione verrà dichiarata proprio in questi giorni, ci saranno i campionati europei indoor al chiuso. L'ultima gara di qualifica erano appunto queste qui dei campionati italiani, purtroppo non andando bene la mia performance non potrò presentare Il tuo prossimo esame? Il mio prossimo esame sarà a fine febbraio, avrò fisiologia dello sport, fisiologia 1 e fisiologia 2. Ho una sessione qua a febbraio abbastanza impegnativa. Quindi lascia stare l'indoor, rimani a casa, chiuso comunque, coperto, e studia, mi raccomando. Senti, dacci delle sicurezze. I campionati europei, gli coreani non ci sono a smarronarci, vero? No, europei, assolutamente no. Sono sempre lì sti coreani, cioè sembra sì. che passino la vita a tirar con l'arco. No, dove c'è noi, tra l'altro. Esatto. Non da dire, vabbè, senti. Mauro, una buona serata, ti lasciamo andare a dormire. Altrettanto, grazie. Ciao, grazie mille. Mauro Nespoli, ricordiamo, atleta del Centro Sportivo dell'Aeronautica e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012 nella gara squadre di tiro con l'arco. Sottolineiamo, tutta la serata era dai vai, questa parte era non solo calcio. Non c'è motivo di far parte del gioco se non vuole raggiungere i suoi limiti per poi superarli. Ed è questo che vuole la sua gente. Le suggerisco di iniziare a pensare soltanto al suo lavoro, tenere per lei le sue opinioni e firmare qualche fottuto assegno. Io sto ancora pensando al salame fritto di questa sera. Penso che stasera non vai a dormire tu. Mi sento già satollo con tutte le cose che vengono date in giro, per il Super Bowl. Secondo me vai in quel supermercato che è aperto 24 ore su 24 a Milano, perché ce n'è uno aperto 24 ore su 24, e ti prendi un salame felino, poi vai a casa nel ginello. Io questa cosa qua. È vero che sono astemio, quindi la birra o il vino tanto svapora. Scusa, sì, ma nell'acqua minerale come butta? Fritto nell'acqua minerale gasata, invece la birra sciambola te la faccio in questo caso. Grazie a Roberto Scaltriti che ci ha guidati al mixer e a Sergio Ferrentino in regia anche questa sera. Giorgio De Luca, ovviamente l'assistente del programma. In redazione Luca Cancellara. E dai e vai, come sempre, non è cambiato nulla da questo pomeriggio. È un programma di e con Luca Gattuso e Sergio Ferrentino. No, scusa se ti abbiamo annoiato, non è cambiato nulla da oggi pomeriggio. Vediamo domenica prossima. Magari cambierà qualcosa. Federico Petrocchi tra poco, ovviamente, qui direttamente su Radio 24 con Möbius, parliamo di scienza. Nel frattempo stanno continuando a parlare del gol di Balotelli, lo stanno smontando in tutte le versioni, anche tutti i tiri che ha fatto, la velocità. Ma sai che c'è la Balotelli cam, non fanno adesso, fa vedere tutti i Balotelli. Ma continua a fare, ha tirato a 25 all'ora, ci ha messo a legarsi lo scarpino 12 secondi, esatto. Può fare meglio. Si è tolto la maglia in 3 minuti. Insomma, è una cosa veramente insopportabile. Io attendo solo il grande momento in cui durranno quanti litri di sudore ha prodotto. Poi siamo a posto. Sì, vabbè, insomma, su questo però io lascerei anche andare il tutto, devo dire, da questo punto di vista. Però ecco la cosa, attenzione, un pelino però di Allegri bisogna pur metterlo. Sempre Allegri. Come Balotelli, molto importante. Però c'è quell'episodio alla fine, dobbiamo andare subito su quello, perché è quello che vi dà la vittoria, è quello che suggella una grande notte. L'andiamo a rivedere insieme. Cosa sì, hai visto? Veloce però. Dai, non è che dobbiamo chiudere. Tu sei andato nel tunnel, non l'hai neanche visto? No, dopo. Fa tutto lui, È stato un episodio che Stefano tocca prima la palla, poi la tocca l'altro, quindi poi li frana addosso. No. Sono stati... No, l'altro gli frana addosso. No. Diciamo che non c'era, secondo me, il rigore. Il tuo Luca, secondo te il rigore c'era? Non c'era. E allora, però, in questo momento c'è il GR. Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La quinta di Beethoven, in edicola 7,99 euro. De Agostini, 49 uscite successive, prezzo bloccato 14,99. Con il nuovo concorso a premi nelle stazioni di servizio Costantin è sempre uno spettacolo. L'altro giorno ero al pompone e mi arriva Schutzmecker da pensionato. Oh, piano, fammi il pieno. La voglio vincere io la Mercedes. Lui vuole il pieno, cambio dell'olio, cambio del pannolone in 5 secondi e per uscire vuole la safety car. Gli piace fare lo sborone. Vieni nelle stazioni di servizio Costantin. Troverai prezzi bassi con il miglior servizio e un concorso da sogno. Regolamento completo su costantin.com. Viva Costantin!